difficile, lo so, però è meteo. Musica allo stato puro, ti ripigli, di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, la voce più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Mercoledì 10 maggio 2006. Il cammino di Gigi D'Agostino. Stavo leggendo un articolo su un giornale di oggi che cos'è questo? Ah, La Repubblica di oggi, 10 maggio. No, è bello perché adesso la felicità l'hanno trovata gli scienziati. Il segreto è migliorarsi ogni giorno. Grazie, forza. Essere circondati da persone più ricche da insoddisfazione. L'aumento di ricchezza di un paese non equivale a più felicità. Però. E se poi ci sono un elenco di robe che bisognerebbe fare per essere felici. fare ginnastica mezz'ora per tre volte a settimana, sicuro. Piantare un fiore o una piantina. Vabbè. Sorridere o salutare uno sconosciuto per strada. Ecco come nascono le risse poi. Una bella risata almeno una volta al giorno. Poi, bello, ecco questo. Telefonare a un amico, così, senza un senso logico. Ma ce ne sono un po', adesso poi ve le leggerò tutte. Sta arrivando questo meraviglioso treno emotivo sulla testa. Che bello è. spettacolo. Bellissimo. Non l'ascolto 35 volte al giorno, più una che quando lo metto in radio per condividerlo insieme a voi. Ogni giorno, ore 18. Magna Romagna, complimenti. La psicologia, l'economia ha mancato l'obiettivo e la politica ha fatto naufragio. Ecco che arriva la scienza della felicità. Ho letto male, non si è capito, e non so leggere, quindi. E la scienza della felicità è sempre quell'articolo lì di prima, no? Dove c'è un elenco di prove allucinanti che bisognerebbe fare per essere felici secondo gli scienziati. E tra queste ce n'è una interessante che a parte tutte le altre che ho letto prima, che vabbè, è la numero 9, dedicare un po' di tempo a se stessi, ogni giorno. E se quello che penso io, io Mi porto abbastanza avanti e quindi forse è per quello che sono molto felice. Io non sbaglio, i problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando ci dona o quando ci togli. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sto solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire o se non sbaglio. Ma se lo sa, qual è la soglia per poter dire, diamo sul taglio. Chi lo sa, se lascio il taglio, non sei frutto del proprio orgoglio. Non so pure qual è il mio meglio, se non si scioglie questa groviglia. Il passo folk, questo è il passo folk e il titolo di questo brano è Passo Folk, sono sicurissimo. Artista, lento violento man, è uno forte. Questo fine settimana appuntamento musicale in discoteca con me e in Austria venerdì e sabato notte, sia venerdì sera che sabato sera sarò in Austria, adesso non mi ricordo assolutamente dove, ma appena trovo il foglio con tutti i dati vi leggerò i posti, le location, le situation. Il cammino di Gigi D'Agostino. casino. Non giochiamo, non giochiamo. Gigi D'Agostino. Non giochiamo, non giochiamo. Gigi Style. La casa della felicità, la stanza più grande sarebbe la sala d'attesa. È bella questa, l'ha scritta Jules Renard, no, Jules Renard, sul Journal del 1899. È più forte di me, devo condividere. Stavo leggendo, ero affascinato da questo pensiero e dovevo e volevo leggere. Jules Renard, o Jules Renard è il nome. Journal deve essere il posto dove ha lavorato Jules e dove molto probabilmente ha scritto questa frase in quel periodo. Sì, è sicuramente il giornale il posto dove lavorava, perché Jules faceva il giornalista, un bravo ragazzo. M2O, Le Camin de Juste Agostino. Tu sei una persona capace di farmi tremare anche senza la tua presenza. Anche senza la tua presenza. Lo fai penetrando i miei pensieri. Pensieri. E percorrendo con me i più oscuri sentieri. You let me down so many times. And I forgot the very first. It's time to stop this useless relation. It's no good for both of us. I guess if you keep loving me, or do you love to see me cry? I can't afford this bad situation. Your behavior has to stop. Your first light.

sono per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone, è un brano che uscirà nei prossimi 25 anni. Allora, io torno al mio articolo oggi, così non c'è verso, non esco. Allora, sempre sull'articolo della scienza della felicità, è bellissimo perché a un certo punto c'è un pallino rosso e c'è scritto: i nemici della felicità, mancanza di novità, perdita del lavoro e lutto. Però non avrei mai detto. Sentiamo cosa ne pensa la foca. Informazione vuol dire informare, perché ci sono delle cose che non si possono dire. Situazione votazione. Ogni giorno potete votare, però una volta alla cioè ogni settimana, però anche ogni giorno, ma solo una volta alla settimana, potete votare la canzone, cioè una delle canzoni che sentite nel cammino. Alcune, perché solo alcuni titoli sono presenti, io non riesco a spiegare le cose. Dare un voto solo alla settimana. È difficile questa cosa qui a spiegare, perché sembra facile dall'altra parte, ma essere qui è un'altra cosa. Quindi voi dovete entrare nel mio sito, che è www.gigidag, cioè anche Gigi D'Agostino funziona, è uguale, vabbè, è più corto, www.gigidagostino.com. Entri lì dentro, no? E ti esce tutta una, cioè esce proprio una lista con la cuffietta a fianco a ogni brano, tu puoi anche ascoltare le anteprime. Ci sono tutte le anteprime, non mi fate forse qualcuno manca, però vabbè, alcune ci sono. E voi potete votare la canzone preferita, perché poi a fine settimana ci sarà un sondaggio. Guarda, è una cosa incredibile, io non ci riesco. Vabbè, io continuo, se qualcuno riesce a percepire le canzoni più votate, ovviamente saranno trasmesse durante la settimana e saranno presenti nella classifica, nella vostra classifica del sabato, cioè che la faccio io, che è mia, però è vostra, perché i brani li avete scelti. È molto dura per me, non riesco proprio a... Mi piace parlare, informare, ma non ce la faccio. Per il momento aperitivo, ci colleghiamo col Celestino di Scopare. Assaggio l'aperitivo. Assaggio l'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Tutti in piedi. Arriva John. Massimo rispetto. Senso di inadeguatezza. Ah sì, pubblicità. Signore e signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Alcuni uomini vedono tutto attraverso il dovere. E così si liberano dalla responsabilità. Alcuni rimpiangono il coraggio che a volte non hanno. Ogni uomo sceglie il proprio cammino. Alcuni uomini si atteggiano a persone per bene, non si preoccupano delle conseguenze. Alcuni uomini combattono con la violenza che hanno dentro. Ogni uomo sceglie il proprio cammino. Alcuni uomini hanno raggiunto la loro destinazione trovando la propria serenità. Alcuni uomini guidano altri perché non capiscono che ogni uomo sceglie il proprio cammino. Ora, con l'aiuto delle nostre mani rivolte verso l'alto, disegniamo il panorama di un piccolo paese fuori dal mondo, fatto da gente di questo mondo. Lasciamoci andare a qualcosa di buono. Mi sembra buono. Mani al cielo. È un mondo musicale che vuole unire le persone. Musica a tempo qui tra le dita. E la voglia a tempo di vivere la vita. Il cammino ti sta vicino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Perché chi ama sa dov'è. Benvenuti nel mondo che non c'è. C'è chi ama, lui sa dov'è. Chi ama sa dov'è. Ci ritroviamo sempre là, a sognare quel che si vibra, uniti nel sogno, ne abbiamo bisogno. Il mattino della vita. Ore 18, il mondo prende forma, si trasforma. Mani al cielo. Ogni giorno, ore 18, il mondo prende forma, si trasforma. Cammino di Gigi D'Agostino. Grazie a tutti voi per questi momenti lontani da tutto. Un disco anziano ci porta lontano. Lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è